edizione. Le 6, 13 minuti e 15 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Qualche notizia che ci arriva dagli Stati Uniti. Allora, questa notte c'è stato un nuovo dibattito tra i candidati repubblicani alle primarie, da segnalare in particolare che la battaglia, soprattutto in realtà vista delle presidenziali, in vista delle presidenziali, si sta spostando dal lato fiscale, perché come sapete ieri Barack Obama ha presentato quella che è la sua ipotesi di riforma fiscale, una riforma del fisco per una maggiore parità fra grandi e piccole imprese, una tassa sulle società che deve calare al 28% e al 25% sulle industrie manifatturiere. Ebbene, ieri Mitt Romney ha rilanciato, ha presentato la sua riforma fiscale, ha detto che vuole ridurre le tasse sui redditi al 28% e sulle imprese, su tutte le imprese, al 25%. Al momento però i sondaggi non sembrano premiarlo un granché, perché in Arizona è a testa con Rick Santorum, mentre invece in Oklahoma, secondo un sondaggio di Rasmussen diffuso poco fa, Santorum è in testa con il 43%, Newt Gingrich è al 22% e Mitt Romney è addirittura terzo con il 18%. Prima edizione. Le 6, 15 minuti e 41 secondi. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi, quali sono le aperture scelte dai principali giornali, poi abbiamo un paio di cose, anzi soprattutto una cosa interessante che arriva da quelli stranieri. Andiamo sul Corriere della Sera, che apre sulla trattativa sul mercato del lavoro, e il titolo è "Le imprese divise sul lavoro", Fornero che dice i partiti dovranno assumersi le loro responsabilità. In particolare sulle imprese non c'è documento comune delle aziende, il Premier che dice invece appoggio politico fondamentale. Un pezzo di Maria Teresa Meli, come sapete c'è qualche divisione all'interno del Partito Democratico proprio su questi temi, tanto che il responsabile economico Fassina ha annunciato che vuole partecipare alla manifestazione della FIOM. Se nel PD fa breccia la linea Filo Monti, quindi la linea lanciata da Walter Veltroni. Da segnalare anche l'evidenza che dà il Corriere della Sera al pezzo di Giovanni Bianconi dedicato all'audizione del capo della polizia Manganelli, gruppi anarchici pronti ad un assassinio, dice Manganelli, e anche il nuovo fronte di battaglia aperto da Sergio Rizzo dalle colonne del Corriere della Sera. Finora era stata la questione dei ministri, ora sono stati pubblicati gli stipendi dei ministri, e poi stipendi da pubblicare, tutte le resistenze dei manager di Stato, di questo si parla adesso, primi elenchi, oggi scade il termine. Poi due grandi foto a centropagina dedicata ai due giornalisti che hanno perso la vita ieri, che sono stati di fatto assassinati dal regime di Assad a Homs, la morte dei reporter sotto il fuoco senza pietà di Assad, a firma di Cremonesi e Olimpio. E poi c'è anche di taglio basso la notizia che vi davamo all'interno del giornale radio. I neutrini, la luce, rivincita di Einstein, non sono più veloci, un errore nel cavo di connessione aveva falsato i dati. Da segnalare in prima, a proposito, visto che si parla tanto appunto di liberalizzazioni in queste ore, con delle modifiche in arrivo che sembrano portare ad un certo arretramento, Massimo Mucchetti con un editoriale in prima pagina la prende da un altro lato, la concorrenza che non si vede, ma di cosa si parla? Di Rai, Mediaset e il mercato televisivo. L'apertura del Sole 24 Ore è "Spesometro più leggero, l'Europa rivede accolta le richieste degli operatori, nessuna selezione per le comunicazioni da inviare al fisco", quindi una sorta di alleggerimento dal lato degli adempimenti. "L'Europa rivede le stime di crescita del 2012, scrive anche il Sole 24 Ore, per l'Italia un meno 1,3%. Una bella grafica Scusate, una bella grafica va sotto il titolo che riguarda Obama. Obama, taglieremo le tasse sulle società. Questo dice il presidente, come vi riferivamo proprio pochi istanti fa. Ebbene, il Sole 24 Ore fa una bella grafica su quello che è il cosiddetto total tax rate, cioè la tassazione totale fatta con i 7 paesi europei più Stati Uniti e Giappone, un tasso che però comprende contributi sul lavoro e altre imposte. In Italia è al 68,6%, in Francia al 65,8%, in Spagna al 56,5%, in Svezia al 54,6%, in Giappone al 49%, c'è la Germania al 48%, gli Stati Uniti al 46,7%, la Gran Bretagna al 37,3%, l'Irlanda al 26,5%, e naturalmente, non a caso ve l'abbiamo letta per prima, prima di tutti è l'Italia, sia in un dato che comprende sia la tassazione degli utili che la tassazione sul lavoro. Siamo ancora sui temi delle liberalizzazioni di mercato e di investimenti, un editoriale a firma di Guido Gentili, per le reti una partita senza trucco, mentre invece naturalmente ci sono anche le questioni dedicate alla riforma del mercato del lavoro e alle polemiche Fornero, avanti anche senza i partiti ma spero nell'intesa, e oggi un nuovo incontro governo parti sociali, e poi alla presidente di Confindustria ha mandato pieno a trattare Confindustria compatta con la Marcegaglia, la riforma va realizzata. A centro pagina si parla di Unipol e Fonsai, AXA in Mediobanca, il numero uno della compagnia francese in piazzetta Cuccia, pronti a rilevare asset dopo la fusione, quindi una partita che sembrava chiusa, in realtà in parte si riapre, come sappiamo, che riguarda appunto Fondiaria Sai, perché Arpe e Palladio hanno presentato un'offerta da 450 milioni per Premafin. E poi un titolo dedicato alla moda italiana, perché sono al via le passerelle milanesi, il tifo per la moda italiana non conosce crisi, a firma di Paola Bottelli, nel quale si ricorda tra l'altro, e ve lo ricordo anch'io, che domani in edicola con il Sole 24 Ore c'è il secondo numero del nuovo settimanale Moda 24. La Repubblica, l'apertura sulle liberalizzazioni, vincono le lobby, slitta la norma sull'ICI alla Chiesa, lavoro, scontro, Fornero, Partito Democratico. Il governo cede su taxi, farmacie e gas. Bombassei critica la Marcegaglia, esagerato sui sindacati. Pranzo Monti Berlusconi, quindi un titolo che mette insieme, insomma, una titolazione che mette insieme un po' tutti gli argomenti economici. Anche qua, un titolo sugli scienziati che dicono abbiamo sbagliato, il neutrino non è super veloce. Anche qua la vendetta di Einstein. A centro pagina c'è la notizia che riguarda la Costa Concordia. Concordia, trovati 8 corpi, indagati i vertici della Costa, questa la notizia che ci dà la Repubblica. Ci sono due interviste interessanti, una è al ministro Severino che dice perché non mi vergogno della mia ricchezza, e si parla ancora una volta dei redditi, e Caselli, il procuratore Caselli, del quale avrete sentito l'intervista anche nelle ore scorse a Radio 24, comunque dice nessuna paura, ma in questo paese sento troppo odio, la vicenda la sapete, è quella delle contestazioni molto violente contro Caselli da parte dei cosiddetti no TAV. C'è un caso che ci segnala Aldo Fontanarosa dalle colonne di Repubblica, Rai, le spese allegre del consigliere Rositani. Questo per quanto riguarda la Repubblica. Veniamo alla Stampa. La Stampa ha una bella apertura, insomma, quando quando va detto, va detto, ed è un'intervista al premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Grazie all'embargo la Birmania rivivrà, dice. L'embargo è stato efficace per spingere il mio paese verso il cambiamento e deve essere sospeso soltanto quando sarà ristabilita la vera democrazia. Non cerco vendette, non voglio trascinare i generali in tribunale, lotterò sempre per battere la povertà e i conflitti etnici, diventeremo, dice, la nuova tigre asiatica. Questa è l'apertura della stampa, anche se il titolo forte di prima è dedicato ancora al mercato del lavoro. La sfida di Fornero sulla riforma avanti comunque, bomba 6 contro Marcegaglia, esagera. Il ministro, dice il ministro Fornero, se la trattativa fallirà il Parlamento dirà se ci appoggia o meno. Bersani replica, serve un buon accordo. Sul tema delle candidature, perché già si parla di un dopo Monti con lo stesso Monti, ci sono le parole che ha pronunciato ieri il Presidente del Consiglio al suo predecessore, ossia Silvio Berlusconi, parlando al suo predecessore, ossia con Silvio Berlusconi, gli avrebbe detto finisco nel 2013. Un titolo dedicato all'inflazione, con la spesa, il carrello che aumenta del 4%, e la notizia che riguarda i redditi online dei parlamentari. Come sapete, si possono mettere online questi redditi dei parlamentari, ma non è obbligatorio, cioè al momento per consultare i redditi dei parlamentari o vi affidate naturalmente alle cronache dei giornalisti, che però per andarli a vedere devono farlo fisicamente alla Camera e prendersi gli appunti. Ebbene, 7 parlamentari su 10 hanno detto no alla pubblicazione online dei loro redditi. C'è un titolo dedicato anche alla Siria, uccisi 2 giornalisti stranieri, e un titolo dedicato anche al piano di Obama sulla riforma fiscale. Ovviamente su Neutrini il titolo è sempre sulla rivincita di Einstein. Il Messaggero, anche qua apertura sulle liberalizzazioni, taxi e farmacie si cambia, le pressioni delle lobby per modificare il decreto, tensione governo PD, Berlusconi a Monti avanti sull'articolo 18. C'è da segnalare che dal quotidiano il quotidiano di Roma, come sapete, ha un titolo in prima pagina forte anche sulla vicenda del policlinico, i malati da un reparto all'altro con le ambulanze. Questo è una storia interessante che ci racconta il Messaggero, racconta di queste 8 ambulanze parcheggiate davanti a un padiglione in fila come i taxi, solo una del policlinico, tutte le altre sono private, appunto portano i malati anche da un reparto all'altro. Anche qua i neutrini che non sono più veloci della luce nel titolo di prima pagina, e un'altra storia che arriva da Roma, 15enne picchiato e sequestrato da baby spacciatori della Roma Bene. La storia arriva da un noto liceo romano del quartiere Trieste. In pieno giorno 2 diciassettenni che hanno fatto lo spaccio di droga una fonte di reddito hanno sequestrato un 15enne che non aveva pagato l'hashish, gli hanno sferrato un pugno, terrorizzato, e l'hanno portato su un autobus fino alla borgata Fidene a nord della capitale. E vogliamo chiudere con il rapporto del quale è entrato in possesso il Wall Street Journal, che pubblica anche sul suo sito, e che è un rapporto della Banca Mondiale, ma anche di persone interne al governo cinese. Perché è particolarmente interessante? Perché è un rapporto, quindi, fatto anche da gente che è dentro il governo cinese, che dice ufficialmente che la Cina potrebbe fronteggiare una crisi economica a meno che non metta in atto delle profonde riforme, inclusa l'uscita, di fatto le privatizzazioni, l'uscita dal peso dello Stato all'interno delle grandissime, delle gigantesche aziende che possiede, e farle operare più come delle imprese vere e proprie, insomma, che stanno sul mercato. Prima edizione. 6:35 minuti e 20 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. L'Italia in diretta su Radio 24, vi parla Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce. È la quarta tappa del viaggio di Italia in controluce verso le prossime amministrative. La puntata odierna è girata a Genova, quella del post-alluvione, della sconfitta del PD alle recenti primarie di coalizione. Il reportage di Cristina Carpinelli. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Io credo anche di dover accettare le manifestazioni di rabbia. Fa parte dei miei doveri. Diceva così il 10 novembre in consiglio comunale a Genova Marta Vincenzi, il sindaco della città devastata dall'alluvione. Evidentemente i genovesi tutta quella pagina non l'hanno dimenticata e alle primarie del PD sono andati a votare in 25.000. Quasi 11.000 hanno scelto il candidato Marco Doria, che in una fugace intervista ci racconta così. Mi sento carico di responsabilità. Ma lei su cosa ha puntato quando ha fatto la campagna? Quello su cui ho puntato è stato il dare dell'impegno politico un'immagine di servizio alla comunità. Il PDL intanto sta a guardare e lavora per creare un'alleanza forte con la Lega, come ci racconta il coordinatore del partito Gianni Barci, che incalzato sui problemi di Genova ci risponde così. Innanzitutto lo sviluppo della città nella sua parte industriale, che ormai è in grave decadenza e non dà occupazione ai giovani. La Gronda, che è un fatto importante, la Gronda di Ponente, ma bisogna unire poi successivamente quella di Levante. L'avanzamento del porto verso il mare, la difesa della cantieristica in questo momento, che diventa un elemento essenziale per lo sviluppo anche della città, e il problema della sicurezza, che è veramente un problema drammatico. Voi avete un candidato sul quale state lavorando, cioè un'idea di candidato, o siete ancora in alto mare, diciamo? Noi non siamo in alto mare, stiamo lavorando per un candidato, aspettavamo le primarie del centro-sinistra per capire qual era l'interlocutore che avevamo di fronte. Oggi sappiamo che è il professor Doria e quindi questo ci permette di fare una candidatura forte, alternativa a Doria e agli altri candidati che ci saranno. Avrete con voi la Lega? Correrete insieme alla Lega? Il mio auspicio è sì, perché questo ci permetterebbe di andare sicuramente al ballottaggio. Lei è una persona che su Genova, sul territorio, c'è stata presente storicamente, ma c'è ancora. Lei se la sentiva un po' che alle primarie la Vincenzi non avrebbe vinto? No, veramente, dico la verità, non pensavo a questa esplosione di Doria, assolutamente. Pensavo che ci fosse un testa a testa fra la Pinotti e la Vincenzi e pensavo che vincesse la Vincenzi. Cosa che mi ha lasciato sorpreso, non, interdetto addirittura, perché non me l'aspettavo proprio. Con quel risultato, oltretutto, Avete sentito la puntata di Italia in controluce dedicata alle amministrative su Genova? Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti e adesso affrontiamo un fatto di cronaca avvenuto ieri, come sapete, molto grave, ed è quello avvenuto in Argentina, a Buenos Aires, un gravissimo incidente ferroviario. E allora facciamo il punto con Adriana Fracchia. Adriana, buongiorno. Buongiorno a te Simone, a tutti gli ascoltatori. Sì, come hai accennato tu, si tratta di un gravissimo incidente ferroviario, almeno 49 persone sono morte ieri mattina a Buenos Aires. In questo incidente è avvenuto intorno alle 8.30 della mattina alla stazione di Once, nel centro della capitale. I feriti sono oltre 600, e 200 dei quali in gravi condizioni, quindi il bilancio è ancora tutto provvisorio, del bilancio delle vittime, perché molti di questi potrebbero morire. Il treno, con a bordo un migliaio di pendolari stipati, accalcati come ogni mattina, era formato da 8 vagoni e stava entrando in stazione quando è andato a schiantarsi contro la banchina a circa 20 km orari, probabilmente per un guasto ai freni. I vagoni di coda hanno schiacciato tutti gli altri in una sorta di effetto domino. Infatti le persone decedute nell'incidente si trovavano tutte nella prima e nella seconda vettura del convoglio, che sono appunto rimaste schiacciate. I giudici che seguono il caso interrogheranno appena possibile il macchinista del treno, il 28enne Antonio Cordoba, che è uscito vivo dall'impatto e ora è ricoverato in ospedale. Oltre alla sua testimonianza, I giudici contano poi di ottenere tutte le informazioni per chiarire le cause dell'incidente dalla scatola nera del treno. Sì, c'è la scatola nera, c'è naturalmente il macchinista da sentire, però già si ragiona un po' sulle cause, qualcosa sta emergendo. Sì, sta emergendo che per quanto i media locali sottolineino che il convoglio era uscito a inizio della settimana dalle officine dove viene effettuata la manutenzione, però in realtà per la popolazione si tratta di una tragedia annunciata a causa delle gravi carenze del sistema dei trasporti argentino. I responsabili del sindacato ferroviario infatti denunciano da anni la mancanza di investimenti sulla linea, che non è mai stata rinnovata dagli anni 60, e infatti la scia degli incidenti che vede coinvolti i treni in Argentina è drammaticamente lunga. L'ultimo in ordine cronologico è avvenuto nel settembre 2011. In questo incidente morirono una decina di persone, furono 200 i feriti, ma l'incidente ferroviario più grave della storia argentina risale al 1970, sempre alla periferia nord-occidentale di Buenos Aires, e provocò 200 morti ed oltre 500 feriti. Ora è stato proclamato per 2 giorni il lutto nazionale dal governo argentino. Grazie Adriana Fracchia dalla nostra redazione per questi aggiornamenti. Io vi do una notizia appena arrivata: abbiamo detto che il sottosegretario agli esteri italiano Staffan de Mistura era andato ad incontrare i due marinai arrestati in India per la morte di 2 pescatori, ha incontrato tra l'altro nella tarda serata di ieri il chief minister dello stato meridionale indiano del Kerala, Oman Chandy, in merito a questa vicenda. A quanto pare non ci sono al momento risultati concreti, secondo quanto riporta una televisione locale. La visita non è riuscita a sbloccare appunto lo stallo tra Italia e India. Il politico ha ribadito alla delegazione la sua posizione, che è quella che non c'è spazio per la diplomazia. Questo il quadro al momento. Naturalmente attendiamo se arriveranno altri aggiornamenti, mentre il sottosegretario De Mistura sta incontrando in questi minuti, in queste ore, proprio i 2 militari. Prima edizione. Come si diceva, parliamo di una sentenza attesa per oggi. Il 6 maggio del 2009 le autorità italiane in acque internazionali intercettarono e respinsero una barca con 200 immigrati somali ed eritrei. Vennero riportati in Libia in base agli accordi tra il governo italiano e Gheddafi. Oggi alle 10:30 sarà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a giudicare sull'operato dell'Italia. Secondo quanto hanno riferito alcune organizzazioni non governative alla nostra collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Simona Rossito, da Strasburgo arriverà una condanna per l'Italia. Andrea Saccucci, professore di diritto internazionale alla Seconda Università di Napoli, ha seguito i ricorsi a Strasburgo degli immigrati respinti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Iniziamo dunque a capire da lei che impatto e che importanza ha questa sentenza, e poi vediamo di capire anche quali possono essere le eventuali conseguenze. Certamente, innanzitutto il caso, come lei ha accennato, riguarda la prima operazione di respingimento effettuata dalle autorità italiane il 6 maggio 2009 ai danni di un gruppo di migranti somali ed eritrei, e alcuni di questi hanno conferito mandato a me e alla collega Antongiro Lana per fare un ricorso alla Corte Europea. Si è celebrata un'udienza il giugno dell'anno scorso e adesso attendiamo questa mattina la sentenza. Una condanna della Corte di Strasburgo accerterebbe in modo definitivo l'illegalità di queste operazioni di respingimento in acque internazionali attuate dal governo italiano nel 2009, una prassi che viola gravemente i diritti fondamentali tutelati a livello internazionale, in quanto impedisce a coloro che scappano dalle persecuzioni di accedere alle tutele previste per i rifugiati. In una battuta, non si può consegnare alla morte e alle torture chi scappa dalla morte e dalle torture. Questo è un tema che si è posto naturalmente spesso anche a livello politico e con una certa energia nei mesi scorsi e negli anni scorsi. La domanda è a questo punto: che cosa comporta una sentenza della Corte in questo senso? Quali obblighi? Una modifica di legislazione, immaginiamo? Ma anzitutto vi sono due prospettive da tenere in considerazione, quella che riguarda i singoli individui ricorrenti. Ricordo che purtroppo alcuni dei ricorrenti sono morti come conseguenza indiretta del respingimento, sono morti ad esempio nel tentativo di rientrare in Italia su imbarcazioni poi affondate, mentre altri ricorrenti sono riusciti a raggiungere l'Europa, l'Italia, uno in particolare qui a Roma e ha già ottenuto lo status di rifugiato, ma altri sono sparsi in vari paesi africani. Allora noi quello che ci aspettiamo è anzitutto una riparazione per i ricorrenti che sono sopravvissuti alle operazioni di respingimento. E questo dal lato dei ricorrenti, in questo caso lei come dire, parla puramente da avvocato, no? E quello che le chiedo è invece proprio come giurista, ecco, esperto anche di queste cose, a questo punto che cosa deve cambiare? C'è una disciplina che deve modificarsi radicalmente? Assolutamente, la pratica dei respingimenti, ed è questa la seconda prospettiva, deve essere definitivamente abbandonata, perché queste operazioni impediscono alle migranti intercettati in mare di chiedere la protezione che viene loro accordata dal diritto internazionale. E allora il nuovo governo dovrà prendere una posizione chiara di discontinuità rispetto alla politica del governo precedente, una posizione che fino ad oggi non è stata assunta, anzi al contrario, vi sono purtroppo indici preoccupanti che la politica dei respingimenti possa essere continuata in futuro. Ecco, noi quello che abbiamo chiesto alla Corte e ci aspettiamo dalla sentenza della Corte è che essa fissi dei paletti ben precisi a ciò che gli Stati possono fare nelle azioni di controllo dei flussi di immigrazione clandestina, e per quanto riguarda il nostro paese in particolare ciò richiederà una revisione profonda degli accordi. Poi ci arriviamo agli accordi. Quello che voglio capire è se la sentenza della Corte è vincolante. La sentenza della Corte è giuridicamente obbligatoria per il nostro Paese e quindi pone a carico dell'Italia un obbligo di conformarsi alle statuizioni ivi contenute. Lei diceva modifica di legislazione, il problema qui è che la prassi dei respingimenti è una prassi non regolamentata dal diritto, quindi ciò che invece si richiederà forse, più che una modifica della legislazione vigente, è una definizione in via normativa di come debbono essere trattati i migranti che vengano eventualmente intercettati in acque internazionali. E soprattutto a questo punto una revisione di una serie di trattati internazionali, perché non sono solamente quelli con la Libia quelli che riguardano i respingimenti. Assolutamente, il caso della Libia è particolarmente eclatante, è stato particolarmente eclatante per le condizioni disumane in cui questi migranti venivano poi detenuti e respinti nei rispettivi paesi d'origine, ma certamente la sentenza avrà un impatto che trascende il caso libico e che si estende ovviamente anche alle situazioni che sono di maggiore attualità, penso soprattutto alle operazioni di respingimento di tunisini verso la Tunisia, anche lì si può porre un problema analogo a quello che sarà oggetto della sentenza di questa mattina. Grazie dunque ad Andrea Saccucci, professore di diritto internazionale alla Seconda Università di Napoli, che ha seguito i ricorsi a Strasburgo agli immigrati respinti, che magari risentiremo nel corso della giornata quando arriverà la sentenza. Naturalmente, come avrete capito, avrà anche un impatto, un discreto impatto politico. È tutto per Prima Edizione, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Buona giornata, ci risentiamo tra poco con il GR.